pazza tempo fa. E un giorno non l'ho rivista più, yeah. Ma ci son momenti che ad un tratto la sento con me. Eccola di nuovo, che mi facciamo? Improvvisamente io la vedo qui davanti agli occhi miei, ed eccola di nuovo accanto a me. Quando penso di non rivederla più, le viene e se va, ma non mi lascia mai. È finito tutto ormai, e allora non so perché, ma ogni tanto lei torna da me. Eccola di nuovo, che mi fa ciao. Improvvisamente io la vedo qui davanti agli occhi miei, ed eccola di nuovo accanto a me. Quando penso di non rivederla più, le viene e se ne va, ma non mi lascia mai. Sì, lo sento, sì, lo sento. Eccola. Eccola di nuovo, che mi fa ciao. Improvvisamente io la vedo qui davanti agli occhi miei, ma non mi lascia mai. Eccola di nuovo.